L'economia delle piccole cose. Di Anna Migliorati. Lo facciamo vedere il film? Magari. Ma come? Si può fare? Vedo che voi non volete credere alle mie parole, ma ai vostri occhi dovrete credere. E ora alza le chiappe da quel dannato sgabello. Abracadabra. Alfredo è bellissimo. 12 mesi che pesano come 100 anni. L'estate scorsa, ve la ricordate, è stata quella del boom degli incassi del cinema d'estate col Re Leone e le sale piene. Questa del 2020, una prova di resistenza. Un saluto da Anna Migliorati, bentornati. Parliamo dei cinema che hanno riaperto con le norme di sicurezza, e in soccorso arrivano però anche quest'anno in realtà le grandi produzioni delle grandi case, i titoli quelli rinviati. Ma intanto si punta invece su un'abitudine tutta italiana. Ve le ricordate le arene estive, quelle di prima delle multisala? Ancora una volta siamo a raccontare un mix tra vecchio e nuovo nella nostra economia, e allora la nostra storia inizia in un cinema d'altri tempi, con l'anima di un'arena italiana storica a Castiglione del Lago, siamo in Umbria. Piero Sacco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da quanto tempo esiste la vostra arena estiva? Possiamo definirla storica sia per la location, che è una rocca medievale, che per l'avvio, che risale alla fine degli anni Ottanta, dove c'era in realtà un ampio giardino con orto, di scavare una sorta di anfiteatro per ospitare spettacoli e quant'altro. E poco tempo dopo pensammo di impiantarci in maniera stabile il cinema all'aperto, che comunque già da qualche anno in maniera itinerante, anni 80, portavamo nel territorio. All'epoca diffusissimo. Assolutamente, sì sì. In questa situazione, quando si è detto la soluzione potrebbe essere il cinema all'aperto, voi ve la siete trovata già in casa e con una lunga tradizione? Sì, anzi, noi diciamo abbiamo rilanciato, partendo dal fatto che avevamo due arene storiche in realtà in Umbria, la nostra sul lago Trasimeno, a Castiglione del Lago, e i giardini del frontone a Perugia. Abbiamo voluto realizzare una rete di 10-12 arene in tutta la regione. E dove di fatto si proietteranno film per tutta l'estate. Per tutta l'estate. L'essersi trovati questa tradizione in casa, un vantaggio sicuramente l'ha avuto. Anche infatti, di affezione del pubblico. Infatti, le stavo per dire, noi abbiamo 400 posti a sedere, con il distanziamento abbiamo fatto conto, arriviamo quasi alla metà, film anche più attrattivi li potremo replicare, quindi no, per andare a superare il contenimento dei posti. Una volta, quando probabilmente la vostra arena è nata tra gli anni 80 e gli anni 90, le arene estive erano l'occasione per vedere quel che non si era visto durante l'inverno. Ovviamente con le piattaforme, con le TV è cambiato tutto. Bravissima. Ora che succede? Anche le novità arrivano in arena? Negli ultimi anni, anche con il lavoro fatto dagli esercenti italiani, si è cominciato a portare nelle arene anche prodotti nuovi che uscivano d'estate. E adesso i prodotti dei film che non sono usciti ma che erano già pronti ad uscire a inizio marzo, quando ci siamo fermati. E quindi un po' una programmazione con appunto quelle poche novità della fine della stagione invernale, andando a ripescare un po' di idee, il centenario di Fellini, il centenario della morte di Sordi, però chiaro, la competitività degli ultimi due anni, contiamo sulla voglia del pubblico di venire comunque in arena, stare sotto le stelle, anche se un pochino più distante, e magari pensare ad altro per un po'. Esatto, bravissima. Le fa un po' sorridere l'idea che il tanto nuovo in realtà è un ritorno al vecchio anche nel vostro settore, come in molti altri? Certo. C'è questa tendenza, come peraltro, come lei saprà, c'è anche la tendenza, diciamo, di fare passo avanti ancora lanciare la palla avanti rispetto allo streaming, no? Addirittura stanno nascendo queste piattaforme che sono collegate alla sala. Lo spettatore di un cinema X che ha la sua sala collegata alla piattaforma Y potrà vedere il film streaming, ma nel suo cinema, diciamo, no? Nel cinema virtuale. E una quota, tra l'altro, di questi e gli introiti vanno alla sala, anche un po' per sostenerla in questa fase. Quindi da una parte c'è questo grande avanzamento che probabilmente accelera quella che è un po' la natura delle cose, no? E quindi comunque, cinema e casa propria in qualche modo collegate. Esatto. Non sono tanto come erano una volta terminali di un'industria, no? E per noi la sala resta fondamentale come esperienza. Grazie allora per essere stato con noi. Prego, buona giornata a lei. Esperimenti nel solco della tradizione, ma anche audaci. Uno per tutti, il drive-in, simbolo americano del cinema all'aperto che diverse città hanno adottato, ma che prende vita anche all'autodromo di Monza, con l'area Paddock 2 che cambia volto in attesa del Gran Premio. Si spera a settembre, da giugno ad agosto, diventa un luogo per vedere i film dalla propria auto. Biglietto a 10 euro, solidale tra l'altro, visto che una quota è destinata al sostegno delle piccole imprese in difficoltà. Ma lasciamo le storie e invece facciamo i conti. E torna ospite gradito all'economia delle piccole cose Luigi Lonigro, presidente dei distributori dei film dell'Anica. Grazie a voi per l'invito. Dove e come si riparte? Allora, da fine febbraio, dal periodo ante lockdown, che vedeva il mercato teatrico italiano crescere del 15% anno su anno nel bimestre, mentre già nel 2019 il mercato era cresciuto del 14%. Immagini che l'Italia nell'estate del 2019, grazie al progetto Movement, è stato il primo territorio europeo per crescita periodo su periodo, pertanto abbiamo sopravanzato Francia, Germania, Spagna. Ci fa anche piacere dire che ne abbiamo parlato proprio nella prima puntata di questo programma di Economia delle Piccole Cose, raccontando di un Re Leone, ma non solo, che aveva lanciato una nuova stagione per il cinema italiano, che era l'estate, e ora ci ritroviamo di nuovo in estate. Ora ci troviamo di nuovo in estate, siamo sotto il 2,5% di quota di mercato come sale aperte, pertanto parliamo di un dato assolutamente irrilevante, mentre volendo leggere il dato positivo abbiamo subito visto che c'è grande voglia di andare in sala, soprattutto all'aperto. Sì, abbiamo visto le arene già in questi giorni andare molto molto molto bene, pertanto c'è voglia di andare in sala. Il progetto di quest'estate sarà Movement Village, che è un progetto che vedrà più di 250 arene aprire i loro schermi, accendere le loro luci sia nelle grandi città che nella provincia. Immagini che nella città di Roma ce ne saranno 8 di nuova apertura, e noi pensiamo possa essere il giusto modo per traghettare il pubblico dal lockdown alla ripresa del consumo sul grande schermo. Chiaramente la notizia dell'uscita del nuovo film di Christopher Nolan al 3 di agosto riapre il discorso estate nelle sale tradizionali in modo molto forte. È stata una scelta di Warner straordinariamente coraggiosa, che segue quella di Disney di posizionare Onward, questa grande animation, al 22 di luglio, e di un importante horror che è The Turning, La casa del male, in uscita l'11 di agosto. Pertanto, ecco, di colpo, da un momento all'altro ha ripreso tutto a muoversi. Chiaramente i distributori e gli esercenti aspettavano i nuovi protocolli sanitari, questi protocolli che in quasi tutte le regioni consentono agli spettatori di poter vedere un film in sala senza indossare le mascherine. L'arrivo comunque di produzioni estive nel cuore dell'estate ad agosto per cercare di rilanciare le sale, e dall'altra parte il fenomeno arene che torna e che era una tradizione italiana in qualche modo. Due vie per rilanciare la voglia di cinema. Sono due vie assolutamente parallele e complementari, che non vanno in contrapposizione una con l'altra. una via che è la via classica, e su questo è assolutamente determinante il nuovo prodotto, il blockbuster in uscita, e pertanto siamo molto felici. Si attende la data di Mulan di Disney, che crediamo possa arrivare nella seconda quindicina di agosto, pertanto rendendo questa offerta ancora più forte, e poi il ritorno alle arene. Queste grandi arene, sia in città che nelle grandi località di villeggiatura, sono la nostra storia, sono state molto importanti quando non esistevano i multiplex, pertanto le sale d'estate chiudevano, tornano a essere importanti in questo momento in cui abbiamo anche capito in modo chiaro dai dati dello scorso anno che c'è una voglia forte da parte degli spettatori anche di riappropriarsi dei centri cittadini. Riparlando di Roma, ma ne potrei parlare anche di Milano, dove se ne sono già accese 5 dal 15 di giugno, pensare a un'arena a Ponte Milvio, a un'arena a Piazza Farnese. Posso aggiungerle io che è affascinantissima l'idea del drive-in, ad esempio, sulla pista del Gran Premio di Monza. Insomma, il cinema ha dato prova di volerci provare. Sì, noi pertanto grande estate con il blockbuster, il Movement Village, le arene nelle grandi città e nelle località di villeggiatura sono due progetti che sono alla base della nostra ripartenza. Siamo un territorio a livello europeo all'avanguardia, il progetto Movement Village è stato analizzato dagli altri territori che non hanno una tradizione di arene, hanno tentato con i drive-in, i risultati non sono stati brillantissimi e stanno guardando questo nostro progetto. Noi siamo molto contenti, è un mercato che vive di questo, vive di contenitori belli, comodi, accoglienti, all'avanguardia e di bei prodotti. Quando esistono queste due cose poi tutto funziona per il meglio. Grazie, allora sentivamo conti che pare tutto sommato potrebbero tornare, incrociamo le dita, vedremo cosa succederà. Per noi alla prossima, ancora tante storie, tanti numeri per raccontare l'economia attorno a noi. Vi aspetto, un saluto da Anna Migliorati.